Lo scorso 8 marzo è uscito Per sempre con me, il nuovo singolo dei Sick Tamburo che anticipa il loro sesto album, e io ho il piacere di parlarne con Gianmaria Cusani, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Ciao Gianmaria. Ciao ragazzi, grazie a voi. Intanto come stai, ti chiedo anche? Dai, parte la stanchezza, perché sono ancora qui che sto finendo le ultime cose, gli ultimi dettagli per il disco, perché questo singolo ovviamente anticipa il nuovo disco. Direi, a parte questo, bene, dai. Volevo parlare un po' con te proprio di questo nuovo singolo e anche del disco che hai annunciato, ma volevo partire da un po' più indietro, cioè da quando lo scorso dicembre a Pordenone avete organizzato un concerto che è stato anche un tributo a Elisabetta, no? E quindi ti volevo chiedere un po' che percorso c'è stato da quel concerto alla scrittura del nuovo disco e alla pubblicazione di questo singolo. Beh, allora, la scrittura il giorno di quel concerto c'era già, perché sennò non ce l'avremmo mai fatta in tempo. Quel giorno è stata la festa dei Sick Tamburo, e visto che facciamo la festa dei Sick Tamburo, in qualche modo ricordiamo chi dei Sick Tamburo ha sempre fatto parte e apparentemente o comunque fisicamente non lo fa più, ma in qualche modo rimarrà sempre parte di questo mondo che è il nostro, appunto. Quindi era giusto attraverso questa festa ricordare Elisabetta, che era l'altra parte del cuore dei Sick Tamburo. Il disco chiaramente era una roba che avevamo già chiaramente preventivato e scritto. Si è trattato solo di andare in studio di registrazione e finire i brani, diciamo, ecco. Quindi nel disco c'è anche qualcosa di suo? No, allora, negli ultimi dischi Elisabetta praticamente non partecipava neanche. Elisabetta, da quando si era ammalata, e quindi parliamo ormai 7-8 anni fa, neanche ai concerti non veniva quasi più, veniva a tipo 2-3 concerti su 20, cioè quando la salute glielo permetteva in qualche modo, no? Chiaramente è sempre stato un punto di riferimento all'interno di Sick Tamburo, ma musicalmente era da tanto tempo che veniva solo saltuariamente, diciamo. E nei dischi, ormai dopo il primo disco, non partecipava quasi più, diciamo. Volevo tornare appunto al nuovo singolo, che segna un po' anche un cambio di genere, no? Rispetto all'ultima produzione che avevate portato anche in tour, perché da un genere più punk, diciamo, ascoltando il nuovo singolo io ho avuto un feel molto da elettronica anni 80, un po' con questo synth iniziale soprattutto. Quindi insomma, perché questo cambio di genere? Se c'è un perché o se è solo... No, in realtà allora lo scorso disco era quello che era un po' fuori stile Sick Tamburo, perché con quel disco praticamente avevamo preso una decina delle nostre canzoni e le avevamo riarrangiate in stile, chiamiamolo, punk melodico, che era un po' lo stile con cui io ho iniziato a suonare la chitarra. Però diciamo che quello è stato un episodio che è conclusosi appunto con un tour che è andato avanti per un anno quasi e con cui ci siamo divertiti moltissimo. E qui si ritorna alla solita scrittura dei Sick Tamburo, nonostante questo singolo sia effettivamente un po' diverso anche dal resto del disco. C'è questa elettronica anni 80, un po' presa dalla new wave, electro wave di quegli anni, sicuramente. Questo il resto del disco è più vicino al suono dei Sick Tamburo soliti, non quello di Back to the Roots, cioè il disco a cui facevi riferimento tu, ma agli altri dischi dei Sick Tamburo. Singolo poi che vanta anche due collaborazioni importanti, diciamo, la prima quella con Roberta Sammarelli dei Verdena e poi l'altra con Alessandro Baronciani per la copertina. Quindi ti chiedo perché hai scelto proprio loro e com'è stato lavorare anche insieme. La copertina con Alessandro Baronciani non è stato tanto strano, perché comunque la nostra prima copertina l'aveva fatta proprio lui, no? Quindi è stata una sorta di ritorno, no? Mentre il featuring della Roberta è nato perché, allora, io e la Roberta ci conosciamo da tantissimi anni, no? Però ultimamente, negli ultimi anni, diciamo che avevamo un feeling musicale molto vicino, ecco. Quindi io non ero sicuro di voler mettere questo brano nel disco, quindi un giorno le ho detto: Roby, se ti faccio ascoltare un brano che vorrei mettere nel disco dei Sick Tamburo, mi dici se ti piace? Io gliel'ho mandato, sì, mi dice, gliel'ho mandato, mi ha detto sì, mi piace molto. Allora lì mi è scattata, siccome avevo cantato la canzone con la mia voce normale, più sotto c'era una voce in falsetto che quindi mimava in qualche modo una voce femminile. Quindi lì, quando lei mi ha detto sì, mi piace molto, ho detto: beh, secondo me dovresti cantarla tu. E lei mi ha detto sì, Ecco, così è nato. Ottimo, ottimo, quindi sì, un po' per caso, ma poi insomma anche... Per caso e anche no, diciamo, perché comunque, come ti dicevo, musicalmente negli ultimi anni avevamo dei punti, molti punti in comune, ecco, dai, senza allargarsi troppo. Un'amicizia, ecco, che si fa collaborazione, dai, diciamo così. Sì, dai. Ne abbiamo tanto parlato di questo disco, dicci se puoi qualcosa di più, nel senso che abbiamo detto che sarà il sesto disco, e dici qualcosa, se posso chiederti, anche sui live che farete nei club, che so che a voi piace tanto suonare. Ti chiedo, tra l'altro, se tornerete anche a Bologna, perché vi aspettiamo. Allora, sì, ovviamente, adesso dal 25 di aprile partiremo in tour, il 21 esce il disco, il 25 ripartiamo in tour, toccheremo Bologna, adesso non ricordo benissimo qui le date, però adesso mi pare a maggio, mi pare verso i primi di maggio, comunque le pubblichiamo su tutti i nostri spazi social, quindi lo si trova facilmente. E il disco fondamentalmente è una sorta di viaggio che tocca le tappe obbligate per molti, se non altro, magari non per tutti, ma per molti, dell'esistenza umana, cioè proprio un vero e proprio viaggio nell'esistenza di tutti noi, e ogni canzone tocca una tappa, diciamo. Adesso non voglio spoilerare troppo, però diciamo che questo è un po' il filo conduttore dell'intero disco. Io ti ringrazio tantissimo per averci dedicato un po' del tuo tempo, ti auguro tanta fortuna per il disco e per il tour, e insomma vi aspettiamo. Dai, io vi ringrazio molto, è stato un piacere essere qua.